Sì, mi senti? Sì, ecco, allora, Francesco è un compagno del movimento contro le trivellazioni e le concessioni di ricerca in Lucania, dico bene? Sì, o Lucania o Basilicata, è l'unica sì, regione che c'è due nomi. Allora, sì. Noi lo stiamo chiamando perché anche cogliendo l'occasione, una doppia occasione, allora, che c'è questa notizia che il ministro dello sviluppo economico Passera ha pronto un decreto per portare a 5 miglia dalla costa il limite per le trivellazioni e le ricerche di gas e petrolio nei mari italiani. In Basilicata da anni, insomma, c'è questo movimento e fra l'altro tu ci dicevi prima in privato che per il 30 giugno è pronto, sì. C'è una manifestazione proprio sì. Su questi temi. Allora, esatto. se vuoi intanto parlare tu, poi eventualmente interveniamo noi per chiederti altre cose. Sì, sono allora tu, vabbè, io parlo poi in qualsiasi momento mi interrompi, va bene? Certo, certo. No, vabbè, comunque intanto c'è da dire questo, che questo governo non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le trivellazioni, proprio perché già il ministro precedente, il governo precedente, quindi la Prestigiacomo, aveva previsto di perforare anche i luoghi che in precedenza erano stati individuati come luoghi di protezione naturale marina, quindi anche nei parchi marini, anche i luoghi ritenuti anche di grande pericolosità, insomma basti pensare alle vicinanze dello stretto di Messina, quindi anche luoghi dove prima era del tutto sconsigliata questa cosa, oppure magari le isole Tremiti, insomma, quindi anche posti dove per motivi anche proprio di logica, di rispetto ambientale minimo, insomma, non sarebbe stato manco possibile immaginare, oppure luoghi come proprio in Basilicata, proprio di fronte a dove hanno costruito dei parchi naturali e dove hanno fatto villaggi marini turistici, insomma uno si affaccia alla finestra e si dovrebbe vedere una bella piattaforma offshore per estrazione del gas, insomma, quindi questo è del petrolio. Allora, quindi in questo senso è chiaro che da anni è nato un movimento in Basilicata, proprio perché in Basilicata c'è qualche cosa come l'80% della produzione nazionale di petrolio e gas, e siamo, diciamo, ai minimi del potenziale, insomma, che si parla di un potenziale che potrebbe arrivare a un 150.000 barili al giorno, perché adesso siamo sugli 85.000 barili al giorno. E tutta questa fretta ovviamente ha avuto un momento di grande accelerazione quando agli inizi di aprile è stato varato il cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni, che all'articolo 16 dice che appunto bisogna tirare fuori tutto quello che è possibile estrarre dalla terra, proprio perché l'obiettivo di Passera è arrivare a qualche cosa come 30 miliardi di euro equivalente, diciamo, di energia estratta per i prossimi 20 anni e tirare fuori 17 miliardi di lire dal punto di vista fiscale, diciamo, per lo Stato, con investimenti di 3, 6, 7 miliardi di lire. Allora questo ovviamente come obiettivo euro, la dice tutta. Francesco, di euro? Sì. No, hai detto scusami, una vecchia deformazione. No, di euro, 17 miliardi di euro, diciamo, sono attesi da Passera, quindi nel giro di 20 anni loro trattano, quindi, diciamo, in materia equivalente, diciamo, di ciò che è possibile estrarre, quindi in qualche cosa come 30 miliardi di euro, appunto. Allora, tutto questo chiaramente, a parte che sono delle previsioni, ma io invito tutti gli ascoltatori a verificare non più di 20 giorni fa la ASPO, che sarebbe appunto l'agenzia di scienziati che esaminano praticamente il cosiddetto peak oil, che secondo loro è stato raggiunto già il 2008, cioè il punto di non ritorno per quanto riguarda lo sfruttamento del petrolio, e loro dicono che quando pure Passera volesse nel giro di un anno succhiare tutto il gas e il petrolio possibile, noi avremmo una autonomia energetica che non arriverebbe nemmeno a un anno equivalente di spesa energetica complessiva per il fabbisogno nazionale, quindi arriveremmo a non più di 9 mesi. Allora, fatto questi conti e considerato che la devastazione in termini ambientali, insomma, lascerebbe delle tracce per generazioni, tracce che molto spesso ovviamente non potrebbero essere nemmeno riparate, perché il processo stesso di estrazione petrolifera è legato addirittura a perforazioni che utilizzano punte di uranio impoverito, che utilizzano anche delle tecniche di esplosione soltanto nella fase esplorativa, quindi con un territorio estremamente fragile. Tutto ciò ovviamente significa non solo inquinare, ma significa anche deviare e disperdere fasi acquifere, e quindi possiamo immaginare un esempio per tutti cosa ne sarebbe per i tarantini e i pugliesi, insomma, che bevono l'acqua lucana, cioè il momento in cui già adesso noi abbiamo dighe come quella del Pertusillo che sono in maniera evidente e inoppugnabile purtroppo già sporcate dal processo di estrazione degli idrocarburi. Quindi non conviene, e in questo senso siamo d'accordo con la professoressa Maria Rita D'Orsogna, che viene sempre più spesso in Basilicata, che ha sollecitato anche recentemente una proposta di legge regionale che vorrebbe tendenzialmente essere anche una legge nazionale contro le estrazioni, proprio in quanto assolutamente non conviene, e quindi ci sono, a parte dei costi elevatissimi che giustificano soltanto il profitto immediato delle multinazionali, ma cancellano anche la possibilità di conservare per le generazioni future il petrolio inteso come materia organica su cui anche i nostri figli potrebbero fare delle ricerche, un utilizzo diverso ovviamente da quello dell'energia. Il momento in cui tutto è convertito al gas, il momento in cui addirittura la geopolitica a livello internazionale è attraversata dalla rideterminazione di blocchi di potere internazionale proprio legati alla questione del gas, negli Stati Uniti basti pensare alla questione dello shale gas legata a quelle tecniche di fracking e quant'altro, insomma, contro i sistemi più tradizionali che sono egemonizzati attualmente da Putin e dalla Gazprom in tutte le direzioni, insomma, la Germania per il Baltico, al sud poi abbiamo la guerra del South Stream, la TAP e quant'altro, che è un discorso che conviene assolutamente fare proprio perché c'è una rideterminazione strategica rispetto a questo. Quindi in questo senso, tornando al punto, noi proponiamo come associazioni locali che si battono contro i permessi nuovi di estrazione, contro il raddoppio del centro Oli nella Val d'Agri, contro il centro Oli di Temparossa, che praticamente hanno trasformato la Basilicata in una groviera, perché abbiamo 471 pozzi, 471 pozzi e molte richieste di estrazione, e quindi di questi ne funzionano più di 50, e immaginiamo che appunto tutto questo si trasforma anche per Taranto e la Puglia in qualche cosa di devastante. Quindi fare altri due raffinerie significa raddoppiare anche la tubazione che porta dalla Val d'Agri, quindi fa da grande collettore, e abbiamo avuto un sacco di incidenti di recente, e significa sottoporre il territorio a un qualche cosa di inedito. Io invito tutti i compagni a seguire che cosa sia l'articolo 16 per il decreto di liberalizzazione, che riguarda in primis tutta Italia, proprio perché significa tirare, strizzare fino all'ultima goccia possibile di petrolio e di gas dappertutto, sia nella terra che nel mare, perché c'è l'ultimo comma che riguarda le misure UNI, che uno se lo legge per la prima volta dice ma che cosa è sta roba per i sub, invece sono i lavoratori che devono lavorare sotto il mare, quindi è chiaro che tutto questo è veramente pazzesco come cosa. Sentire il tuo parere anche su altri due aspetti. Uno è quello che, al di là appunto del danno ambientale già solo per l'installazione di queste piattaforme e poi per la ricerca nonché per l'estrazione, ma c'è anche un aspetto che è quello che piattaforme così vicine alla costa, alla luce dei disastri, parliamo solo quello in America della BP, certo, appunto potrebbe causare, più il fatto che l'Italia appunto è completamente sismica, si è dimostrato, quindi un altro pericolo. E poi un altro aspetto, che è quello del fatto che un investimento del genere, per esempio, se fosse indirizzato alla ristrutturazione delle case, degli edifici in genere, dal punto di vista del risparmio energetico, energetico potrebbe portare a un guadagno che è quasi simile. Sì, sì, ti direi, dirò che c'è anche di più, insomma, da questo punto di vista. Allora, quindi per quanto riguarda quell'aspetto, diciamo, delle perforazioni, intanto c'è una velocificazione, perché questo articolo 16 cosa prevede? Di sostituire le procedure che portano a 10 e a volte anche più anni di tempo tra richieste di permesso alle singole regioni e pareri dei singoli enti locali, comuni, che spesso per fortuna ultimamente dicono sempre di più di no, e quindi questo significa anche allungare dei tempi, fare delle osservazioni, avviare il VIA, che significa valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto speciale, limiti, diciamo, di zone SIC eccetera eccetera, che significa anche parchi naturali a volte, tutto questo. Quindi riuscire a dribblare tutto questo spesso per le multinazionali non è cosa molto semplice, tanto più in una condizione come adesso in Italia, dove ci sono centinaia in realtà di opposizioni che sono sempre più legate tra loro. E quindi l'articolo 16 della liberalizzazione prevede di fare un decreto entro 6 mesi della sua uscita. 2 mesi sono passati, quindi significa entro settembre. Io credo che se si comincia a parlare di questa storia dei 5 chilometri, dei 5 miglia dalle coste, è proprio perché evidentemente stanno affinando gli strumenti per arrivare a una decretazione entro probabilmente luglio-agosto, e per accorciare i tempi si parla addirittura di 6 mesi complessivi. Questo vuol dire velocizzare i tempi e stabilire una forma di dittatura terribile, che addirittura esclude la possibilità di interlocuzione con le stesse regioni, che a questo punto vedrebbero derogati anche gli aspetti che sono scritti nel titolo quinto della Costituzione, nella specie, diciamo, l'articolo 117, dove l'energia è considerata materia concorrente. Quindi vuol dire togliere alle regioni, a un anno nemmeno dal referendum sul nucleare, uno degli aspetti fondamentali per la programmazione. L'altro aspetto che toccati tu invece riguarda la questione della produzione cosiddetta alternativa. Beh, ultimamente noi abbiamo visto che c'è uno scontro addirittura tra Enel ed Eni sulla questione proprio della gestione energetica e della questione del gas. Si tratta di 100.000 posti di lavoro che negli ultimi 5 anni sono stati creati anche in Italia, proprio perché con gli incentivi dello Stato è stato possibile fare una pianificazione che a volte ha dato anche delle contraddizioni per quanto riguarda magari l'utilizzo del consumo magari del territorio. Questo significa anche una scarsa compartecipazione, ma è un altro aspetto rispetto alla questione centrale, che oggi come oggi Enel dice: noi abbiamo una serie di impianti, ad esempio Giorgio Ferrari è bravissimo da questo punto di vista, quindi ce lo può approfondire magari appena sarà possibile, ci sono una serie di impianti che sono sottodimensionati, cioè nel senso che hanno una sottoutilizzati, scusate, cioè nel senso che hanno la possibilità di produrre un casino di energia, quindi è valida la produzione di questo tipo di impianti anche a gas se noi li utilizziamo per un minimo di 3-4 mila ore all'anno, ma che producono per meno di 3, per meno quindi di 2, quindi in questo senso c'è la necessità da parte dello Stato di ridurre addirittura i contributi e quindi di abbassare le quote di produzione di energia alternativa. Quindi noi siamo veramente alla follia, cioè dove tutto ciò che non è immediatamente legato alla possibilità di estrarre profitto deve essere abolito. Ed è per questo che poi io lancio questo appello alle compagne e compagni, alle associazioni, non perché la Basilicata sia il posto dove legata alla trivellazione e che questo sia più conosciuto che altrove, ma perché è lì che c'è la produzione tra il 6 e il 10% di energia nazionale, che passa da, diciamo, portare al 20%, che significa raddoppiare, a volte triplicare, diciamo, le autorizzazioni in termini brevi. E quindi, diciamo, al centro dell'articolo 16 c'è, cioè, il rapporto tra quello che in Basilicata è conosciuto come il memorandum e questo articolo 16 del decreto di liberalizzazione, che è nazionale, e quindi in Basilicata, a Pisticci, dal pomeriggio del giorno sabato 30 giugno a tutta la domenica, con una manifestazione nazionale, quindi dal 1° luglio, siccome lì purtroppo non manca nulla, insomma, dal Tecnoparco per quanto riguarda anche il trattamento di schifezze nazionali che sono legate addirittura ai fanghi chimici del petrolio, quindi i centri beni sparsi per l'Italia, centinaia di camion che arrivano lì, fino a 1 milione di fanghi chimici che poi vanno a finire nel Basento, e poi c'è un centro Oli, insomma, quindi in questo senso la Val Basento di per sé è simbolica anche dell'inizio di questa avventura che nel 59 Mattei con Colombo insomma lanciarono, quindi in questo senso noi oggi ci troviamo addirittura la GeoGasTok che ci porta il gas russo da stoccare proprio in quelle zone, in enormi cavò, e quindi vedendo quali sono le conseguenze in zona terremotate e qual è il problema che lega per esempio questa zona anche al terremoto dell'Emilia Romagna, non so se sono riuscito a condensare un po' di cose, ecco. Pronto? Sì, va bene, quindi rilanciamo, sì, sei stato molto, molto chiaro e anche esauriente, rilanciamo comunque allora questa manifestazione nazionale e ci vuoi dire a Pisticci, hai detto, no? Allora, Pisticci Scalo, che è molto facile da raggiungere sulla Basentana, si può arrivare anche fino a Ferrovia con il treno, quindi dipende dai compagni che vengono dal nord, insomma. Da Salerno sono 2 ore di macchina, insomma, per capirci, però dico la portata nazionale è fondamentale, è un unico momento ma di un'importanza enorme che ovviamente deve trovare gli attentellari anche per poter costruire in Italia una ossatura organizzativa che metta insieme i compagni che si battono da anni contro le estrazioni in Sicilia con quelli dell'Abruzzo, del Molise, delle Tremiti, i compagni del nord. Ti faccio un esempio, c'è stato la settimana scorsa una 2 giorni proprio in Val d'Agri, che è un po' il cuore, no, in Italia, il più grande giacimento petrolifero estrattivo d'Europa definito al momento, c'è stato una 2 giorni della COPAMS, cioè che significa appunto la conferenza contro il petrolio e per l'ambiente e la salute, cioè quindi autogestita a livello popolare, e sono arrivati addirittura compagni da Lecco, dagli Abruzzi, insomma dalle altre regioni, quindi c'è già, voglio dire, questa consapevolezza che bisogna costruire questa prima ossatura unitaria anche per procedere verso, qualcuno parla già, una proposta di legge a livello nazionale che dice addirittura anche a livello europeo, perché sono delle contraddizioni, proprio perché si intersecano su questo punto una serie di piani, insomma, che riguardano la Costituzione, il diritto ad agire e la funzione della politica, diciamo, degli enti locali, il rapporto tra le associazioni e il territorio e ovviamente anche quale futuro noi vogliamo, cioè nel senso qui siamo veramente a una questione molto più cruciale di quello che possiamo immaginare, perché la questione dell'energia, della democrazia, dei diritti e del futuro ovviamente sono tra loro strettamente interrelati. Spero di essere stato chiaro. Sì, sì, allora diciamo che la lotta sicuramente è aperta su vari fronti, ma l'asse portante è sicuramente la consapevolezza e la responsabilizzazione, nonché l'organizzazione delle popolazioni coinvolte, anche quelle non coinvolte. Assolutamente. Tutta la politica energetica ovviamente riguarda complessivamente tutti noi. È una questione centrale. Va bene, allora rilanciamo questa manifestazione nazionale, sicuramente ci risentiremo anche a ridosso un po' della manifestazione per rilanciarla, va bene? Va benissimo, ti ringrazio.